Mancano ancora i decreti attuativi, per cui manca un calcolo specifico dei numeri, dei soldoni che vengono tagliati o non tagliati. Sicuro noi ci rimettiamo al dato di fatto che il ministro Mussetti ha detto che la scuola può funzionare tranquillamente con le risorse che già ha. Quindi ha già previsto che la manovra di quest'anno per quanto riguarda il settore dell'istruzione sarebbe stato a risparmio. Andando un po' a spulciare la manovra, vediamo che alcuni tagli, alcuni cambiamenti ci sono. Si parte innanzitutto dal capitolo più importante, che è quello dell'alternanza scuola-lavoro, nel senso di cui vengono ridotte in una maniera molto importante le ore. Questa era una vecchia promessa del Movimento 5 Stelle in campagna elettorale a proposito della politica scolastica, ore che vengono tagliate di molto, con una conseguente riduzione delle risorse che vengono impiegate per le coperture finanziarie necessarie all'alternanza scuola-lavoro, che però non vengono spostate da altre parti, per cui c'è un ammanco di risorse. Sui giornali si parla di cifre specificatamente per il discorso dell'alternanza tra i 20 e i 50 milioni di euro che vengono risparmiati, fra virgolette, ma questi soldi non sono stati rimessi da nessuna parte poi. Per cui noi siamo tutti d'accordo sulla riduzione, sull'annullamento in caso anche dell'alternanza scuola-lavoro, ma il problema delle risorse questo rimane. Soprattutto, come viene anche rimarcato dalle organizzazioni studentesche, noi abbiamo un problema riguardo all'edilizia scolastica e la sicurezza, la messa in sicurezza degli edifici, che non ha trovato un nuovo rifinanziamento, per cui questa manovra non aiuta e non va incontro al mondo della scuola. Invece, per quanto riguarda, sempre in tema tagli o comunque di quelli che potrebbero essere gli investimenti, che cosa è previsto invece per quanto riguarda le assunzioni nei confronti del personale della scuola, diciamo? Allora, grosso problema e grosso punto interrogativo, nel senso che all'interno della manovra c'è un ridisegno, un ennesimo ridisegno della procedura di reclutamento e quindi del concorso che dovrebbe essere bandito, un concorso che molti docenti o anche semplici laureati stanno attendendo da parecchio tempo. Vengono ripreviste una serie di cambiamenti su quello che era il testo della legge 107, però anche qui non sono stati stabiliti i numeri, perché questi dovrebbero essere stabiliti in una seconda fase da parte degli uffici scolastici regionali sulla base del fabbisogno, ma non sappiamo quante risorse vengono messe per questa assunzione. Molto banalmente, nell'arco del 2018 ci sono stati dei percorsi abilitanti che hanno previsto l'abilitazione sul sostegno di molti docenti, e questi percorsi abilitanti avevano permesso l'accesso a una prima fase di un concorso, il vecchio oramai FIT, per docenti già abilitati. Questi, ad esempio, in Romagna ancora non sono stati assunti, per cui si ripropone la questione di cattedre vuote, in particolare sul sostegno, che non hanno alcun tipo di copertura. Per quanto riguarda sempre la questione dei tagli, ora correggimi se sbaglio, ma a questo punto abbiamo assodato che ci saranno dei tagli anche quest'anno previsti dalla manovra per la scuola, ma non è che questi tagli si inseriscano in un percorso florido di sempre maggiori investimenti nella scuola degli anni passati? Allora, la questione è un po' complessa, nel senso che su quello che riguarda la scuola noi possiamo renderci conto che di una sostanziale comunanza di intenti fra i vari schieramenti politici, centrodestra e centrosinistra, hanno proceduto nella stessa maniera. È un discorso che si potrebbe approfondire, quello della regionalizzazione del sistema scolastico. Comunque è un dato di fatto che da parte di tutti i vari schieramenti, dopo la 107, che aveva in un certo modo investito delle risorse sulla scuola, riuscendo a scontentare tutti quanti, la politica generale è quella di ridurre complessivamente le risorse che vengono portate alla scuola, all'istruzione e soprattutto alla promozione scolastica che deve essere garantita alla scuola. Cioè, nel senso, abbiamo tagli delle borse di studio, tagli di percorsi di facilitazione dell'accesso all'istruzione, per cui siamo un po' punta a capo su queste questioni. Un'ultima domanda, una battuta su un tema che è uscito in questi giorni, ovvero anche quest'anno sono state pubblicate di nuovo le classifiche delle scuole in tutta Italia. Secondo te hanno un senso queste classifiche? No, queste sono classifiche che valgono ben poco, soprattutto se consideriamo chi le produce queste classifiche, nel senso che dietro questo tipo di visione della scuola c'è la Fondazione Agnelli, che chiaramente porta avanti un certo punto di vista sul sistema scolastico italiano, che è in linea con una visione di competitività fra le varie scuole e apprezza un certo tipo di disegni che puntano alla dinamica della scuola-azienda, per cui dopo facciamo, è molto facile fare delle classifiche in cui si vedono molto bene i risultati. Le scuole più forti o giudicate più forti si trovano nelle grandi città, sono scuole che conoscono una politica di investimenti molto forte, conoscono anche un costo, guardando la classifica ai primi posti ci sono delle scuole private, è facile fare la buona scuola nel momento in cui ha molte risorse. Se tutte le scuole avessero uguali risorse, conoscessero un'uguale attenzione da parte dei dirigenti e degli uffici scolastici regionali, sicuramente avremo più scuole buone, ecco, piuttosto che una classifica che lascia il tempo che trova.